come stai, come sto, maledettamente bene. Penso a te, penso a noi e non vivo più. Forse sei abile a nascondere il dolore. Forse no, non lo so, ma ti aspetterò. Guardami, sono qui tra l'inferno e il paradiso. Non so più che anno è, cerco solo te. Tutto sa di follia, ma è solo malinconia. Vedo la realtà e vorrei che fosse una bugia. In nome dell'amore, l'alba brucerà le porte della tua prigione. In nome dell'amore, fai la cosa giusta, sì, la cosa giusta, anche se fa male. Un giorno